Radio 24 Reportage. Appunti di scuola di Alessandra Schepisi. Un saluto da Alessandra Schepisi. Vaccini, si parte. Le scuole stanno per riaprire, i battenti, le scadenze per mettersi in regola ormai sono imminenti. Il 10 settembre e il 31 ottobre. Queste le due date da segnare in rosso sul calendario perché, come ha detto il ministro dell'istruzione Fedeli, non ci sarà nessuna proroga. Corsa contro il tempo dunque, soprattutto per le famiglie dei bambini da 0 a 6 anni, che entro 9 giorni, 10 per l'esattezza, visto che il 10 settembre è domenica, dovranno presentare alle segreterie scolastiche i documenti vaccinali necessari pena esclusione dal servizio educativo. Avranno più tempo invece, quasi 2 mesi in più, le famiglie degli studenti di scuole elementari, medie e biennio del liceo. Ma quali sono le vaccinazioni obbligatorie e tutte gratuite? Sono 10, divise in esavalente, antipolio, tetano, difterite, epatite B, pertosse, emofilo e tetravalente, parotite, rosolia, morbillo, varicella. Attenzione però, perché sono 10 solo per i nati dal 2017 in poi, mentre sono 9 per i nati dal 2001 al 2016, per i quali non c'è l'obbligo dell'antivaricella. I documenti da presentare sono il libretto vaccinale rilasciato dall'ASL, ma varrà in questa fase transitoria anche la prenotazione di visita vaccinale o la prova di averla richiesta. In questi ultimi casi occorrerà poi mettersi in regola entro il 10 marzo, una fase transitoria dunque per il 2017, come ha spiegato il ministro della Salute Lorenzin. Noi abbiamo previsto una fase transitoria che è tutta quella del 2017, per cui fino al 10 di settembre c'è tutto il tempo per chi ha per esempio smarrito le certificazioni, non si ricorda dove ha messo un foglio, una ricetta, di procedere, diciamo, a questi adempimenti burocratici, così come di fare richiesta di mettersi in regola con le vaccinazioni. Poi dal 10 di settembre fino al 10 di marzo ci sarà tutto il tempo per chi non ha fatto vaccinazioni di cominciare il percorso, oppure per chi le ha fatte ma deve ancora produrre dei documenti, di poterle produrre. Ma cosa succede se non ci si mette in regola? I genitori saranno invitati dall'ASL a regolarizzare la loro posizione e rischiano comunque sanzioni da 100 a 500 euro. Per i bambini di asilo nido e scuola dell'infanzia è previsto poi l'allontanamento dalle strutture. Non potranno più frequentare finché non si saranno messi in regola. Per gli studenti della scuola dell'obbligo è invece diverso, potranno continuare a farlo. Basterà pagare la sanzione, una distinzione che ha una sua ragione, a spiegarcela è lo stesso ministro dell'istruzione Fedeli. Una distinzione importante per due ragioni, non solo perché c'è un altro obbligo istituzionale da rispettare, che è quello dell'obbligo formativo scolastico, ma anche perché il grandissimo lavoro che va fatto per tutelare la salute dei singoli bambini, ma anche delle comunità, deve iniziare esattamente dai primi anni di vita, perché è lì che anche nella cosiddetto libretto vaccinale, percorso vaccinale, tu devi aumentare la copertura. Diciamo che quando tu arrivi ai 6 anni, molto dovrebbe essere già stato fatto in termini di vaccinazione. Questo io credo che sia l'elemento più importante. Per questo abbiamo fatto il ragionamento per il quale nella scuola materna o nell'asilo nido non entri se non sei vaccinato o se non ti poni il tema di vaccinare tuo figlio, mentre nella scuola dell'obbligo entri. Ovviamente, anche qui tengo a dire, se un genitore non ha fatto negli anni precedenti vaccinare il proprio figlio, continua a mantenere un atteggiamento contrario alla vaccinazione, noi comunque lavoriamo a convincere, coinvolgere e motivare, oltre che ovviamente a sanzionare così come prevede la legge, ma continua a pensare che il lavoro più importante che dobbiamo fare anche come istruzione è quello di motivare, convincere e coinvolgere i genitori sull'importanza della vaccinazione per il proprio figlio, ma ovviamente per l'insieme della comunità. Ma le scuole come si stanno organizzando? Qual è l'impatto che sta avendo questo decreto sulle segreterie? E riusciranno gli istituti a controllare in tempo tutti i libretti vaccinali, a gestire gli eventuali ricorsi, a formare le classi secondo i criteri fissati dal decreto? Di certo nuove incombenze ricadono sulle scuole e molti presidi hanno fatto sentire la loro voce di protesta scendendo in piazza nei mesi scorsi. Noi non siamo autorità sanitaria e intanto meno autorità di protesta. polizia. Non può il Ministero della Sanità riaggiungerci un'altra responsabilità in termini di controllo, quando la sanità pubblica ha benissimo tutti i dirigenti medici per poterlo fare. E questo stato di controllori noi crediamo che non tocca a noi, ma solo anche dal punto di vista burocratico, perché la ASL ha già i nati alle persone vaccinate, tutti gli elenchi di chi è vaccinato oppure no, per cui danno a noi una nuova responsabilità amministrativa con le segreterie che non ce la fanno più. Non possiamo fare anche il servizio del Ministero della Sanità. Questa è soltanto l'ultima delle vessazioni che la burocrazia disorganizzata di un ministero che non sta più in piedi riversa sulle scuole. Le scuole non possono fare tutto, è ora di organizzare meglio le cose. E ora che le scuole stanno riaprendo i battenti, facciamo il punto della situazione con il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. La preoccupazione che noi abbiamo come presidi è che anzitutto si sia un carico di lavoro, soprattutto dal punto di vista della documentazione burocratica, molto forte per le scuole che hanno ranghi sempre più ridotti nelle varie segreterie. E soprattutto il timore che ci possa essere da parte delle ASL una delega troppo ampia alle scuole di verifica, cosa che appunto alle scuole non compete, di verifica appunto delle varie documentazioni che verranno presentate. Ma le scuole cosa dovranno fare? Quali sono i compiti che le competono da questo punto di vista? Dovranno avere la tutta la documentazione. Non avendo la documentazione, dovranno esclusivamente, e non è un lavoro da poco, comunicare alla ASL, e a sua volta poi la ASL si farà partecipe di intervenire al limite presso anche il tribunale, se non so quale sarà l'organismo per quanto concerne le multe da mettere ai genitori che non volessero vaccinare o che non abbiano vaccinato i figli. Oltre a controllare documenti, i presidi dovranno anche occuparsi della formazione delle classi, prevedendo una distribuzione omogenea di bambini non vaccinati. E su questo avete avuto qualcosa da dire? Ci ha lasciato molto perplessi, perché le formazioni delle classi, l'abbiamo detto più volte anche al Ministero, viene fatto normalmente a luglio, quando noi sappiamo invece che le ultime indicazioni per quanto riguarda i vaccini sono arrivate in pieno agosto, per cui le scuole dovranno rimettere mano per verificare appunto che siano stati rispettati questi parametri che riguardano i bambini immunodepressi, le classi che non possono avere più di tanti bambini o ragazzi non vaccinati e così via. Cioè, ci saremmo aspettati un maggiore coordinamento, ma il Parlamento ha avuto dei tempi e delle lungaggini nell'approvazione della legge che non hanno tenuto conto di quelli che sono i tempi della scuola. Molti presidi sono scesi in piazza, hanno protestato contro queste nuove incombenze, hanno detto le proteste, quello che diceva anche prima, le maggiori incombenze che derivano dal fatto che si buttano su, se tenga conto che la maggior parte delle scuole hanno segreterie, soprattutto elementari e medie, con due impiegati, con tre impiegati al massimo, con tutto una mole di lavoro enorme, quindi si è aggravata una situazione che già di per sé era abbastanza difficile. Quello che noi diciamo non è che diciamo astenetevi dal rispettare la legge, diciamo semplicemente alle istituzioni governative, parlamentari, sindacali, fate in modo che le scuole possano agire nel migliore dei modi. Insomma, non vogliamo fare gli obiettori delle leggi, vogliamo fare semplicemente i servitori dello Stato, ma con uno Stato che ci metta a disposizione gli strumenti e che non chiede la luna nel pozzo. Un ruolo fondamentale per l'applicazione del decreto è quello delle regioni, che si stanno muovendo in ordine sparso. C'è chi ha provveduto a semplificare le procedure per rendere ai genitori la vita più facile, come la Liguria, in cui le ASL stanno spedendo 55.000 lettere alle famiglie, il Trentino, dove con il tesserino sanitario è possibile scaricare la certificazione, l'Umbria, dove i distretti sanitari spediscono le documentazioni a domicilio, mentre c'è chi addirittura contesta il decreto, come la Puglia o il Veneto, che ha presentato ricorso. Facciamo il punto allora con Sergio Venturi, vice coordinatore regionale della Conferenza delle Regioni, ma anche assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna, regione che tra l'altro sta inviando alle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni documenti sullo stato vaccinale, con eventuale appuntamento in caso di inadempienza. Basterà dunque presentare questa lettera entro il 10 settembre, mentre per gli anni successivi si sta pensando ad un invio in digitale. Ci sono posizioni diverse, ci sono modalità differenti. Noi siamo in compagnia, mi risulta, di Liguria e di Umbria, che hanno fatto la stessa cosa che stiamo facendo noi sulle materne. Altre stanno sostanzialmente facendo la stessa cosa, però limitando la comunicazione solo ai bambini non adempienti, quindi quelli che hanno bisogno di un appuntamento, e Piemonte, Basilicata. Poi ci sono Lazio, Puglia e Campania che invece hanno degli accordi diretti con gli uffici scolastici regionali per lo scambio dei dati, e anche lì non c'è nessuna burocrazia. Mi auguro che, e sono sicuro che, nessuna regione abbia scelto deliberatamente l'approccio burocratico, perché credo che questo, almeno col giudizio che diamo noi, è che questo è un provvedimento sacrosanto di cui c'era assolutamente bisogno, perché siamo al di sotto della soglia di sicurezza per quanto riguarda i bambini, e quindi non è che vogliamo trasformare un provvedimento che la grande maggioranza dei genitori ha visto con grande favore in qualche cosa che viene vanificato da un atteggiamento che privilegia la carta, la burocrazia, il fare viaggiare le persone anziché fare viaggiare i dati in maniera digitale, cosa che stiamo cercando di fare. Quindi secondo lei sta funzionando questo coordinamento con le scuole, perché i presidi lamentano la mancanza di una cabina di regia, diciamola così? Allora, le scuole scontano, credo, il fatto che per loro agosto è un mese orribile, nel senso che ci sono tutte le conferme delle assegnazioni, le chiamate, le assegnazioni dei docenti, però francamente di fronte alle rassicurazioni che abbiamo dato, sì, forse questo è un ulteriore adempimento in più, però stavo per dire prima, come tutte le cose che, con le quali si parte il primo anno e le prime, in questo caso i primi adempimenti, sono una novità, dopodiché dall'anno prossimo non se ne parlerà più, nel senso che tutto il sistema avrà imparato a fare le cose per il meglio. Insomma, io cercherei di evitare, come si sta facendo, i lamenti e di tenere le rivendicazioni per un momento successivo. C'è grande attesa, ma io sono convinto che da qui all'avvio delle scuole non ci saranno grandi disagi, se non episodici. Quindi secondo lei saranno poche le famiglie inadempienti poi alla fine? Io penso che, al di là di quelle, chiamiamo quelle così, ideologizzate, noi avremo sicuramente un incremento della popolazione vaccinale, perché purtroppo, presi come siamo da tutte le scadenze, io ritengo che molti genitori hanno lasciato passare anche i periodi delle vaccinazioni, non tanto perché avevano delle problematiche rispetto ai vaccini, ma probabilmente perché hanno fatto magari la prima dose sull'antipolio e sono dimenticati la seconda, nonostante che gli sia arrivato l'avviso. Insomma, lo vedo più come un problema di consapevolezza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.